Sapete perché la zanzara ha tanto successo? Perché non recitate, parlate dell'umanità, che è così. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Sai dove si capisce che non conti un cazzo, Crucià? Perché non conti un cazzo lì, questo devi dire. Perché non dite che fate dalle 6:30 alle 9 la zanzara, perché la zanzara è 20 minuti, dalle 6:30 alle 9 c'è traffico, c'è il telegiornale, c'è la borsa, ci sono i mortacci tua. Non conti un cazzo. 2 ore e mezza di trasmissione? Falso. Fate 20 minuti. Merdacce. Cruciani, hai rotto il cazzo con la zanzara, mio marito ti ascolta dalla mattina alla sera, non ne posso più. Non ti preoccupare, Crux, ci penso io, questa notte dorme in garage. Uè Cruciani, quando inizia la zanzara sono in casa, ma io esco in macchina per ascoltarvi. Il top. Allora, caro Davide, devo confessarti una cosa, te la confesso in maniera molto chiara. Sentiamo, sentiamo. Senza ipocrisie. Allora, sì. Fin da oggi a luna circa, sono arrivate sul telefono della zanzara, non sul mio telefono, le immagini della signorina che tu non conoscevi prima che io te la presentassi, prima che io ti pronunciassi oggi il nome, cioè Diletta Leotta. Diciamo la verità, sì, Parenzo non sa, non sapeva fino a oggi chi era Diletta Leotta, giusto? Non sto dicendo una... Sì, sì. Non sapevi chi fosse, o sbaglio? No, ho paura adesso magari un magistrato mi notifichi un avviso di indagine perché non conosco... No, per carità, sei signora. Un po' fuori dal mondo. Ho visto che è una collega molto, molto carina. Una collega, molto bella, perché usi questi termini una orrendi. Giornalista, una ma collega. Sì, vabbè, una conduttrice televisiva, una collega. Una collega, una giornalista. Ma che roba è e una ho collega? Ho visto che qualche imbecille le ha fatto la festa dando in giro foto private, hackerando, insomma, una vergogna, insomma, una porcheria. Spero che lei denunci chiunque in modo durissimo. Durissimo, inflessibile, la porcheria, cioè vedersi violato le proprie affetti. Stai calma, ma questo è scontato che è una porcheria, è chiaro che è una porcheria. No, allora, poveretta, chissà come starà in queste ore, dai. No, ma sicuramente sarà distrutta, però il punto fondamentale è questo, non bisogna pensa essere... se pubblicassero il tuo telefono con la salta fuori. Pubblicassero il mio telefono, non c'è niente di strano, non c'è nulla di strano. No, non ci sarebbe nulla di strano, ti posso assicurare, nulla di particolarmente strano, perché è tutto talmente evidente da non essere strano, diciamo, no? Allora, la cosa però, certo, la cosa che ti voglio dire è un'altra. Sì. Cioè, non bisogna essere ipocriti. Sono arrivate tutte queste foto, alcune con volto scoperto, altre non si capisce se sono vere o sono false, della signora Diletta Leotta nuda, con le tette di fuori, eccetera. Allora, non bisogna, ripeto per la terza volta, non bisogna essere ipocriti. Qui è pieno di gente, anche qui a Radio 24, che se le è divorate queste foto. Ma che c'è? Se le è divorate tutto il giorno. Non bisogna essere ipocriti. Questa è la prima cosa. La seconda cosa si che voglio dire... Si sono resi complici di un reato. No, eccolo lì. Lì ti volevo. Quei maialotti si sono resi complici di un reato. Non è così. Assolutamente. Non è così. Come quelli che acquistano illegalmente... Ma se prima mi hai chiesto dove le posso vedere. Prima no, telefono detto mi hai detto dove le posso vedere. No, detto. Ho detto una cosa diversa. Qui non le trovo. Ho fatto io Google, non le trovo. Certo che non le trovo. Sono ancora visibili? Ma sono no, ancora visibili nei vedere. Siti ufficiali? No, volevo capire la questione. No, come, non capire sono andato, la questione. Come non sono andato a vedere le foto della no, ragazza che si è suicidata? Ma non cioè, è complice di un reato non è così. Chi va a vedere quelle cose? Non è, così. È complice di un reato. No, ma dici come un sacco di chi compra merce contraffatta da persone no, che ti vendono dicendo, per strada le cose? Stai dicendo uguale, delle cazzate. E vanno perseguiti. No, cioè io no, penso, no. ad esempio, che se uno va su quelle cose, va perseguito. Ma tu sei completamente pazzo. Assolutamente. Cioè, io qui al telefono della Zanzara, al telefono della Zanzara sono arrivate almeno una quindicina di foto, alcune male, chiare, alcune. Ma denuncia chi ti ha mandato quelle foto. Ma nella maniera più assoluta, no. Vedrai che smetteranno di mandare, cioè, no, ci vuole, no, la sanzione, altrimenti diventa un mondo, una porcellana. Allora, però mettiamo facciamo un po' un riassunto. Allora, Diletta Leotta è una presentatrice, conduttrice di Sky, diventata, sì, molto famosa, sì, negli ultimi tempi, perché conduce la Serie B su Sky. È richiesta da moltissime città dove si gioca la Serie B. Bene. È diventata anche una specie di star del web, perché ovviamente è molto carina, eccetera eccetera. E il punto fondamentale è un altro: qualcuno forse ha hackerato il suo telefono, su questo si sta indagando, mettendo in giro queste cose. Ora, la colpa non è né di chi, quelli, né di quelli che tu chiami i maiali che vanno a vedere queste foto, perché è assolutamente normale che questo accada una volta che le foto sono in giro. Secondo, la colpa non è del web o di internet. Come non è normale andare a vedere i siti pedopornografici. Ma che c'entra? Ma sono due cose diverse. Ma quelli... Perché è frutto di un reato quelle foto. Gli unici responsabili sono quei figli di puttana che hanno hackerato il telefono della, certo, signorina Leotta, e poi hanno distribuito sul web le sue, sì, foto o i suoi video. Gli unici, diciamo, responsabili con una sono minore, questi, anche quelle che le hanno guardate con avidità. Io aggiungo anche con ma avidità nella maniera morbosa più assoluta. No, nessuno di quelli che ha visto le foto, visto i video e magari ci si è anche smanettato sopra, perché qualcuno ci sarà, qualcuno ci sarà, questi non sono responsabili di nulla, perché purtroppo una volta arrivati lì ognuno è morso, come dire, dalla curiosità, è preso dalla curiosità. Io lo confesso, ero qui in redazione, le ho viste pure io. Male, non avevate niente da fare. Tranquillamente. Male. Ma no, ma che vuol dire non ha niente da fare? È normale che accada una cosa del genere? Guardare cose frutto di un reato, male. Ma dai, non dire cazzate, su, come dai. No? Ma se è stato hackerato, è materiale hackerato, quindi rubato, quindi frutto di un reato. È come essere complici di un reato, è evidente. Dai, non dire stupidaggini. Questa è veramente evidente che è così. Ma è veramente una stupidaggine. Come quelli che comprano la merce contraffatta, è uguale. Dunque, uno si dovrebbe rifiutare di andare a vedere queste foto, secondo te? Sì, certamente. Cioè, dovrebbe evitare di vederle. Esattamente, questo contribuirebbe. Stupidaggine. Anche tu che compri il fumo, quando fumavi le canne, allora hai contribuito a un reato. Anche tu hai contribuito a un reato. Intanto io non lo compravo, vergognati, ma allora ce lo acquistavo da altri amici che lo perché prendevano. Perché vuol dire? Da dove viene? Ma da un'attività illegale quello. Ma quella è una battaglia per battaglia, la libertà. Dai, non c'è nulla di morboso, perché lì non faccio male a nessuno, smettila, perché me lo fumo, dai, io e non faccio danni a altri. Guarda, ragazzi, no, mentre guardando quella foto fai un danno a lei. Ma se non la guardassi romperesti il mercato, capito? Eh sì, dai, se tutti non la guardassero, non guardassero con le foto, romperebbero un mercato. Allora, non è responsabile lei, non è stata imprudente lei, ognuno può tenere sul suo, sul suo telefono tutti quei video o tutte quelle foto. Qualcuno dice no, lei non doveva tenere i video, non doveva tenere le foto, eccetera, eccetera. Questo, ma altra cazzata. Altro. Non sono responsabili quelli che vanno a vedere le foto. È come rubare a casa, ragazzi miei, ragazzi. Tu compreresti mai del materiale che sai che ti hanno rubato da casa? Allora, nei giorni scorsi Emilio Fede che cosa ha detto sulla vicenda Cantone? Senti, sei quasi d'accordo con Emilio Fede che lei se l'è andata a cercare? Beh, alle volte un orologio rotto due volte al giorno dice cose giuste. Fede, segna l'ora giusta. Fede, che ne pensa di chi dice, di chi pensa che quella ragazza se la sia cercata nell'inviare quel video a quattro amici? Ne penso che può, che può, è possibile, perché queste ragazze sono assieme, direi, vittime e carnefici. Cercano quindi, direttore, secondo lei, in qualche modo alcune? L'80% sì. Bah! Ragazzi, gli unici responsabili sono quei figli di puttana che hanno fatto l'hackeraggio. Il resto sono tutte cazzate, non è responsabile. Certamente non sono responsabile io che ho visto quelle foto, ragazzi. Cioè, anche in piccola parte, no, sì, dai, perché dai, hai alimentato quel mercato. Marcato Lega Nord. I profughi in realtà non vengono dalle guerre. Marcato sempre, regala sempre cose formidabili. Senti. Da dove vengono? Senti. Io sono rimasto impietosito perché si vede proprio che scappano dalla guerra. E probabilmente è una guerra fatta con le pistole ad acqua, perché se quelli sono i reduci di guerra, mi chiedo con cosa fanno la guerra in quei paesi. Cioè, quei profughi che vediamo nelle foto, quelli che vanno spesso, stanno sui balconi o accolti nei nostri centri, eccetera, eccetera, ragazzi, in realtà lui dice non sono reduci di guerra. ancora marcato contro non so chi, un tizio si chiama Castaldini. Come, è il portavoce nuovo centrodestra? Sì? Sì, sì, è una donna, è la portavoce del nuovo centrodestra. Ah, vabbè, conosci tutti te. Pistole ad acqua, sentiamo Castaldini, non so, giocano a nascondino, si danno le sberle nelle orecchie, fanno la guerra delle sberle. Questa è una situazione abbastanza drammatica. No, veramente drammatica. Della conoscenza della politica internazionale. Sono ragazzi provatissimi. Diamo loro un aiuto. Lo mettiamo nelle commissioni per capire chi è provato e chi no. Fanno il salto della cavallina. Io credo che facciamo. Mattiato, un secondo, faccia parlare. Si tirano le biglie. Faccia parlare Valentina Castaldini, un secondo. Oh, si sono rifatte vive le due Marchi, caro Parenzo, le due Marchi, le due Marchi. Una delle A proposito, di Barbato, di questo qui, come si chiama? No, no Marcato. No, un'altra cosa. Hanno fatto un video in cui una delle due dice perché non si estingue l'uomo. Ah, ecco, cioè, interessante. Ma ancora parlano queste? L'estinzione dell'uomo. Ancora non hanno vergogna per quelle che ancora parlano, pensate. Ma perché? Non possono parlare, hanno un su Facebook, però, su internet, no. Fossi in loro sarei divorato dalla vergogna me ne starei nella mia spelonca. Perché non si estingue l'uomo, gnocco? Sarebbe una cosa bella. Non sarebbe mica male. I leoni, i cammelli, i dromedari, e ci estinguessimo noi umani che abbiamo distrutto tutte le cose belle. Oh, senti, mondo. A me dispiace per voi ragazzini, ma io la mia vita l'ho già fatta, Cioè la figlia della nobile dice perché l'uomo non si estingue. Ma è una buona domanda, perché non comincia da loro? È una ottima domanda effettivamente, perché non ha iniziato da loro? Ragazzi, comunque rispetto a quello che abbiamo detto su Diletta Leotta, Parenzo pensa che chi ha guardato oggi quelle foto, anche, e sono in tanti, ha una piccola responsabilità. Vi dico che potrebbe anche non essere stato hackerato il telefono, cioè non c'è solo questa ipotesi, c'è un'altra ipotesi che prevede invece il fatto che lei abbia mandato queste foto. Non cambia la sostanza. No, assolutamente, che lei abbia mandato queste foto a un destinatario X, naturalmente, e poi questo qua per vendetta o per giocare o non so perché cosa. Ha commesso un reato, appunto, non cambia niente. Le abbia diffuse, Cioè, se io ti mando una foto mia e tu poi la diffondi, io non è che te la mando perché voglio che tu la diffonda. Amici della zanzara, lasciate perdere, io la zanzara non la voglio sentire perché mi interessa il traffico, voglio sentire il traffico, capito? La zanzara. Zanzarosi, contattateci all'800 24 0024 o via WhatsApp al 393 71 71 701. Vabbè, qualcuno scrive quelle foto, basta non cercarle, non guardarle, appunto, non cliccarle, esatto, basta voltare civilmente lo sguardo altrove. A me questi qua che fanno i puritani, giusto, i puri... No, puritani, ma non dai, essere complici ma non dire del cazzate, dolore dai. Di una persona ma e non essere complici di un reato. Ma tutto è una qua. Cazzata, dai, è una minchiata, lei si guarda, è normale, è umano guardare quelle foto lì. Non è normale. Appartiene all'umanità. Appartiene all'umanità, punto, cioè, e basta. Cioè sapere di commettere una cosa sbagliata. Ma non è commettere una cosa sbagliata, scusa, gli unici figli di puttana sono quelli che hanno hackerato, quelli che hanno distribuito le foto, punto, ecco, e basta. E quelli il resto sono tutte cazzate, dai. Sono dei piccoli complici, come quelli che fanno il palo mentre vengono fatte le rapine. È chiaro che quello che fa la rapina con la pistola in mano si vedrà una condanna più forte, ma quello che fa il palo è altrettanto responsabile, come quelli che fanno il palo. Uguale. Paolo, provincia di Milano. Vai, iniziamo, dai, Paolo. Ciao Cristiani, Parenzo. Volevo che voi riusciste a far passare un messaggio. Non si sente un cazzo, Antonio da Monza, dai. Pronto? Dimmi. Ciao. Dimmi. Una cosa, proprio in in relazione alle foto della signorina, la giornalista Leotta. Sì, sì. Io vorrei capire, la Leotta, per carità, non metto in dubbio che sia la migliore giornalista del mondo. Ma non è quello in discussione, non c'entra una mazza questo. No, ma io fino a stamattina, no, in discussione sì, perché... Fino a ma che c'entra la bravura o non bravura di una persona? Qui c'è un'altra cosa in ballo, no? Cioè, che c'entra se è brava o non è brava? No, hai perfettamente ragione sul fatto dell'hackeraggio è quello che di chi è la colpa o di chi non è la colpa, però la problematica è che fino a stamattina io, come molti, ho visto che anche Parenzo era d'accordo con me, sapeva e non sapeva chi fosse la Leotta. Sì, sì. E da oggi lo sanno tutti. Oh, bravissimo. E allora? E allora? Qual è il tuo sospetto? Qual è il tuo sospetto? Io sospetto che sia un discorso di pubblicità, tra virgolette. Senti, è una puttanata pazzesca questa che stai dicendo. È veramente una puttanata pazzesca quella che stai dicendo. Cioè, secondo te se ne sarebbe pubblicate da sola per motivi pubblicitari? Mamma mia. Da sola no, però se io stavo... Da sola no, che vuol dire? Chi l'avrebbe fatto? Spiegami, chi l'avrebbe fatto? Vabbè, se io le passo a te, che le passi alla Stava, alla fine non è che me le pubblico io. Ci sono agenzie che lavorano sul marketing anche di queste cose qua. Che stupidaggine, quale sarebbe il vantaggio di questa roba? Ma fino a ieri nessuno, benché fosse... Ma non è così, dai, non è così. Non è che uno, non è che uno mette delle foto con le tette di fuori o mette delle foto con le tette che ballano, dai, dei video, dai, su, amico mio, dai. È vero, ma sei d'accordo con me sul fatto che fino a stamattina in pochi sapevano chi fosse la Leotta? No, ma non c'entra niente questa roba qua, a parte in pochi, ci sono un sacco di appassionati di calcio che sanno chi è, cioè milioni di persone in Italia, scusa. Ma non c'entra niente. Se tu non sai un cazzo è colpa tua, come colpa di Parenzo, cioè... Ma io mi metto alla stregua di Parenzo. Parenzo sostiene una cosa, grazie Antonio. Ma non sono l'unico, perché c'è un bel articolo sull'Huffington Post, ad esempio, di chi dice l'ipocrisia di quelli che piangono Tiziana e poi scaricano le foto di Diletta, cioè non sono l'unico che sostiene questa roba, non l'avevo letta questa roba, la sto leggendo adesso. Ovviamente tutti pronti a dire poverina la ragazza che si è suicidata, ovviamente vittima, cioè. E poi magari sono gli stessi che oggi si scaricano avidamente il video di questa collega, non collega, conduttrice, non so, non mi interessa, si scaricano avidamente questo video e magari se lo passano dandosi di gomito. Ecco, sono oltre a essere un branco di maiali. Non ho dato di gomito a nessuno, ma ho visto tutte le hai foto. Hai fatto molto male, perché sei complice di un reato. Ne devo parlare stasera alla radio, li guardo. Quindi ma l'avrei fatto a prescindere. Le viste, sto parlando di un caso e non andrò a vederle perché non mi riterrò responsabile, corresponsabile di un reato. Stai dicendo una puttanata me. Inaudita, guarda. Perché come non compro sulla spiaggia merci contraffatte, come non faccio il palo durante le rapine, voi state facendo il palo durante una rapina. Oppure peggio ancora, siete quelli a cui viene venduta della merce rubata. L'hai già detto, dai. Arcangelo Milano, dai. Arcangelo Milano. Quindi dei criminali. Arcangelo, vai. Ciao Giuseppe. Dimmi, dai. Tutto bene? Sì, dimmi. Allora, secondo me è indispensabile fare due distinguo, sono due lati della stessa medaglia. Sì. Distinguere il fatto tragico, la morte, il suicidio, il Tiziana Campione. Sì, Arcangelo, non ho tempo adesso. Pietro, provincia di Brescia, discorso troppo lungo, ti chiamo dopo. Pietro, dimmi. Ciao Beppe, mi senti? Vai, dimmi. Ok, perfetto. Niente, allora, io volevo documentare quello che è successo a mio amico in un paesino. Troppo lungo, Brescia, dopo. Appunto. Sergio, Bologna, vai, vediamo se qualcuno stringe. Vai, Sergio. Ciao, la tua amica le foto le ha messe fuori lei, sono inhackerabili. A parte che non è amica mia perché non la conosco. Ma per me se non è, o te la trombi o sei deficiente, quindi. No, e questo te la trombi lo dice a qualcun altro, perché in questo momento non si sta parlando di chi trombo io, chi non trombo io, ma si sta parlando di una persona che vede le sue foto private pubblicate su tutti i siti italiani. Dunque, non dire cazzate. E che cosa vuoi dire? Non ho capito. Lo faccio per mestiere, è inhackerabile un telefono. Vabbè, dopo ti chiamo, restate lì, dopo ti chiamo. Nolente o dolente, chi sale sul mio autobus ascolta la zanzara. Io sono un untore di zanzara. La zanzara. Quanto sei ipocrita, Parenzo, quanto sei ipocrita. dai dei miserabili a quelli che vanno a puttane perché alimentano lo sfruttamento, cazzi e mazzi, e poi ti fai le cannette. E le tue cannette cosa alimentano, minchione? Non te ne frega niente dello spaccio e della malavita che ci vive dietro, eh? Ma va, vai a cacare, vai. Come me, odia la fica, oggi vuole il licenziamento di Diletta Leotta. Da abbonato sono contrariato a questa mancanza di rispetto e sobrietà. Oppure ridatemi di Cagno e siamo pari. Cari amici, qui non sentite cose normali, non potete sentire cose normali, sentite quello che non sentite mai da nessuna parte. Questo tizio che chiaramente ironizzava... Ma che c'entra Di Canio? Di Canio, no, è stato giustamente sospeso, sì. Questo basta. Tizio diceva una cosa, no, che chiaramente io non condivido, però è un ragionamento che si può fare. Siccome l'immagine di Sky è stata, diciamo, colpita lo stesso con queste... con questa storia della Leotta. Ma ragazzi, ma ribaltate tutto, siete colpiti dall'immagine della anche Leotta anche si chiama, ma Leotta, che c'è? Si chiama Leotta è stata colpita l'immagine, sì, della, ma Leotta, lo so, ma sono d'accordo con te. Dopodiché... Di Canio non ha colpito, invece lui si è sporcato l'immagine di Sky con i suoi tatuaggi mostrati in Bella Vista. Un tatuaggio. Sono cose completamente diverse, sì, totalmente. Però quello dice, fa un paradosso, no? Ma quello, perché quello è un malato di mente, è uno dei classici malati di mente che telefonano qui e che va bene, ma che Vox Populi, Vox Day, anzi. Come sei colto, anzi, Sergio da Bologna. Sergio Vox da Populi, Bologna. Vox. Vai, Sergio, dimmi. Ma ciao ragazzi, quelle foto sono fatte con una DSLR, con una macchina fotografica. Sono state poi tagliate ad arte e rimesse lì. Di conseguenza, se non l'ha fatto lei, l'ha fatto ma qualcuno. Ma che ne sai, scusami, che ne sai? Le ho viste. E sei un esperto di queste cose? Sì, qualcosa ne comprendo, sì. Allora, quelle qualcosa. Foto sono state fatte come? Sono state fatte con una macchina fotografica in buona misura. Non sono tutte, non vengono tutte da un cellulare. Beh, tu dici, quindi, che è impossibile hackerare i siti? Hackerare i telefonini, scusami. È molto difficile perché perdono l'indirizzo tutte le volte, quindi dovresti avere... Cioè, c'è l'iCloud, sì, l'ipotesi è che qualcuno abbia violato l'iCloud. Se qualcuno, è così, va bene, sì, se qualcuno, diciamo, lascia nome e password in giro, si può fare, quello è vero. Però è complicato, dici. Ma senti, io un bel momento faccio un lavoro di cacca, di conseguenza... Di queste robe ne vedo un po'. Quando ho finito i soldi devo guardare queste cose qui. Non erano immagini. Cosa vuol dire che quando ho finito i soldi devi guardare queste cose qui? Sono un informatico vecchio. Sì. Dunque? Quindi, e che fai? Fai l'hacker anche? No. Vabbè, per conto di qualcuno vai a roistare dentro. Lei fa lavoretti zozzi, dai. Quando non ce n'è più è questo. Sì. Fa lavoretti, ti danno dei soldi, zozzi, ti danno lavori zozzi. Stai tranquillo, stai tranquillo. Ti danno dei quattrini per fare dei lavori per un po' sporchi. Per fare lavori zozzi, giusto? Zozzi. Sì, però è bellissimo, fammelo ascoltare ancora un po', puoi dire zozzi ancora un'altra volta? Zozzi, lei fa lavori zozzi, ma non c'è da... È come dire, lei è un criminale, sì certo, io ho rubato. Io non so cosa fa, ha detto se che quando sono finiti i soldi, fa questi lavoretti. Ma è come per rubare in casa. Per la Procura della Repubblica? Magari lo fa per la Procura della Repubblica. Se lo fa per la Procura della Repubblica è nobile. Vabbè, per chi lo fai, Sergio, non ho capito. Ascoltate, guardate bene, quelle immagini sono state distribuite molto bene ad arte, sono delicate, non sono brutte, perché se tu le... Beh, insomma, delicate, ci sono due tette che ballano, insomma, non esageriamo, dai. Ci vuole un pochino di trash, perché sennò non passava. Cioè, vabbè, senti, però io conosco, parlo per fatto personale, conosco molto bene chi gestisce l'immagine e la carriera della signorina Diletta Leotta, e certamente questa operazione non viene da lì, se c'è un'operazione, siccome non c'è un'operazione. Cosa che viene da casa, quella, da casa, viene dagli apparati, non viene dai network, per me. Che vuol dire dagli apparati? Spiegaci, noi che siamo dagli apparati vuol dire da qualcuno che ha un accesso diretto, un telefono, un accesso diretto a una macchina fotografica. Scusa, non è molto più semplice l'ipotesi che qualcuno cui la signora Leotta ha dato queste foto le abbia poi distribuite in giro? Cioè... è estremamente semplice, però a meno che la signora Leotta non abbia dato, non abbia fatto con questo qualcuno un contratto di non distribuzione. Ma no, che c'entra un contratto di non distribuzione? Qualcuno che aveva in mano queste cose e poi le ha date in giro, cioè semplicemente questo è estremamente probabile, però perché ma allora basta, cioè, lei le ha date in giro così per divertimento personale, perché sono foto che qualcuno aveva là, no, è un personaggio pubblico, poi è pure molto brava, quindi allora... peccato, cioè... E allora che c'entra? Non ha bisogno. Ma che vuol dire? Ma ci sono personaggi pubblici che danno in giro delle foto sperando che le persone non tradiscano. Molto semplice. Non lo so, però l'idea che mi avete dato questa sera, dopo tanti anni che siate estremamente teneri, tu e quell'altro. Perché teneri? In genere siete molto, molto più acuti. Ma non capito, teneri su che cosa? Non ho capito. Con questa signorina. Cioè, ma teneri, che cosa dobbiamo dire? Ma che vuol dire? Ma perché ci dobbiamo accanire? Ma che vuol dire? È la lama di Oca, la soluzione. Ma non ho capito, perché lei invece che responsabilità ha secondo te? Allora, io non la conosco la signorina. Beh, allora, se non la conosci, come fai a dire? Siamo teneri con la signorina. I figli di puttana sono quelli che hanno distribuito sul web questa roba. Che cosa cazzo c'entra lei? Se ci fosse stata un'altra persona. Ma secondo te c'è lo zampino di qualcuno vicino a lei? Ma dai, ma che vantaggio ne ha? Che vantaggio ne ha? Un ritorno economico notevole. Ma quale ritorno economico? Ma dai, su, ma non capisci un cazzo di questo. Sarai un bravo hacker, cioè, ma di queste cose d'immagine non capisci una sega. Te lo posso dire, non capisci una sega. Pietro dalla provincia di Brescia, dai. Buonasera a tutti, Crociani. Dimmi. Buonasera a tutti. Vai però, vai, io vai. Prima ho parlato perché volevo documentare quello che è successo ad un mio amico del mio paese. Dunque, lui è nato su internet in un sito di incontri in webcam. Ovviamente ha conosciuto una ragazza, o meglio una persona che si spacciava per tale, e si è mostrato in tutto il suo ben di Dio. Con la faccia? Col volto, con la faccia? Sì, sì, faccia e tutto quanto, pure il membro. E allora? E successivamente il signorino si è... l'ha pure aggiunto su Facebook, che ovviamente era un maschio, e è stato ricattato perché volevano 600 euro. Bisogna mai cedere ai ricatti, naturalmente, no? Che cosa avrebbe potuto fare con questa cosa? Darlo alla fidanzata, darlo alla moglie, che cosa? No, infatti dicevano che se non pagava questi soldi, lui lo dava a tutti gli amici qui e là, poi non contento l'hacker ha pubblicato, gli ha rubato il profilo Facebook. Vabbè, ma alla fine perché racconti questa cosa? Ah, per documentarlo quello che è successo. Ma che cazzo ce ne frega noi di uno che è stato ricattato, un amico tuo che è stato ricattato su internet? Ma che ci dispiace, ma non ce ne frega una mazza, scusami Pietro, che cosa ce ne frega di un amico tuo che è stato ricattato? Lo sappiamo che esistono queste cose su internet, qualcuno che si fa ricattare, ma non bisogna mai pagare, perché concludo l'ultima cosa, ma non è che è una dichiarazione ufficiale, concludi avanti. A Bologna c'è solo la Fortitudo, buonasera. A Bologna? Ma che cazzo, ne sono una cosa di basket. Enrico da Grosseto, un cretino questo qua, dai. Enrico da Grosseto, vai. Sì, buonasera. Io volevo intervenire in merito all'intervento, diciamo, sui profughi. Io ho dei documenti delle commissioni di diversi ragazzi che sono passati in commissione che scappano dalla guerra. Le percentuali sono molto basse, danno... molto basse, mi pare evidente, molto basse. No, ma ha ragione Enrico, c'è chi scappa da una guerra, è un numero ma non è che lo dico io, ci sono le commissioni, solo Parenzo non lo ammette. Poi teniamo gente che ha ammazzato delle persone, ma questo non lo so se teniamo gente che ha ammazzato delle persone. Io le do i verbali delle commissioni in cui dichiarano loro questo? Sì, ci sono dei verbali delle commissioni in cui le persone dichiarano loro, questi profughi hanno dichiarato, siccome hanno ammazzato una persona, anche uno, un bambino, è scappato perché lì funziona che gli danno, pagano, c'è qualcuno che garantisce per lui, esce fino al momento. Capito, lei sta dicendo che noi ospitiamo degli assassini? Certo. E perché dovremmo ospitarli se non sono profughi, scusami? Perché noi abbiamo i nostri tempi, perché dopo la commissione c'è la bella... però tu stai dicendo una cosa interessante. Praticamente tra le persone che noi ospitiamo ci sono anche praticamente degli assassini rei confessi? Certo, sì. Ma certo. Magari hanno motivato questa cosa di fronte alle autorità italiane in qualche modo o no? Certo, hanno investito, cioè se secondo lei investire un bambino in un mercato, quindi ucciderlo. Ma assassini oppure incidenti stradali, non ho capito. Loro definiscono incidente stradale, dare fuoco a una foresta dove muoiono delle persone. Non ho capito quali ragioni questi qua portano per ospitare, per essere accolti. Perché se no nel loro paese andrebbero in galera. Ah. Secondo lei non devono andare in galera? Ma io non lo so se devono andare in galera o no. Non ho capito niente di quello che dice questo qua. Lui sta dicendo che ha dei documenti sui profughi. Questo telefonista qui. No, ma che telefonista? Dei documenti su dei profughi in cui questi qua praticamente che sono ecco già questo, infatti. Ha dei documenti, magari lavora in queste quando ti dicono che questi qua raccontano una cazzata, per te non è mai vero, per te bisogna accogliere tutti. Accogliere tutti a prescindere. Ma cosa vuol dire stelle sue accogliere tutti a prescindere? Ma chi intanto vanno accolti, cioè tratti dal mare, tratti in salvo dal mare, poi vanno fatte le verifiche, intanto vanno sistemati in alloggi, confortevoli. Tutte le verifiche paghiamo noi, paghiamo tutto noi certamente, mi pare, paghiamo tutto, certo, accolti, presi, chiunque viene noi accolti, poi verifichiamo, chiunque, tutti quelli che vengono, tutti. Uno che sta bene a casa propria se ne sta a casa propria, non è che migra, uno possibilmente se ne sta, la maggior parte delle persone se ne stanno bene a casa loro, non è che hanno interesse ad andare via dal proprio paese, perché la maggior parte delle persone vogliono stare nel posto dove sono nati, fermo lì. Siete goduria. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Caffè Society, il nuovo film di Woody Allen dal 29 settembre al cinema. La Zanzara. Sti cazzi, Sgarbi non metterà mai più piede su un aereo dalla Swissair. Sti cazzi, altra volta, ma sai la Swissair che cazzo gliene frega se Sgarbi non prende più l'aereo? Anzi, secondo me l'hanno fatto apposta che si sono levati dai coglioni un rompicazzi come Sgarbi. Ma vaffanculo, vai a cagare in mezzo ai prati sulle ortiche, va. Sgarbi, sei un provinciale, un barbone. Se paghi per viaggiare in economy, vai in bagno in economy. In aereo esistono le classi e anche la sicurezza, se sai cosa sta succedendo al mondo. Che vuol dire che non vai in giro a cazzeggiare, ti chiudi in bagno, in una classe dove il personale non ti conosce. Brava Swissair, e Sgarbi, sei un barbone e anche un furbetto. Cazzo, mi sto a imbarcare su uno Swissair, se non mi fanno andare a cagare nel cessuncolo di prima classe, gli sbrocco. Allora ragazzi, dove andiamo? Quell'ascoltatore di prima che tu hai attaccato, Parenzo, sì. Era un ascoltatore da Firenze e ci raccontava una cosa molto semplice, che da documenti in suo possesso una parte molto ristretta, molto piccola degli immigrati che arrivano in Italia viene da guerre. E in realtà invece molti chiedono di essere accolti per questo motivo. Allora, o decidiamoci una volta per tutte, o accogliamo tutti, anche quelli che dicono ho bisogno di mangiare, e gli diamo il timbro, puoi venire in Italia e puoi rimanere in Italia. C'è la distinzione tra il migrante economico e il migrante che scappa dalle guerre. Ma il migrante economico non lo possiamo accogliere, punto e basta. Non può rimanere qui, punto e basta. Nessuno dice di accoglierlo, dice intanto di salvarlo, che è la priorità assoluta. Prima, salvare una vita umana, una, due, tre, cento, quattrocento. Ma perché ci pigliamo in giro? Una parte molto piccola di quelli che vengono qui vengono dalle guerre. Sono non lo in sappiamo. Pericolo. Ma è così. L'Eritrea. Sono i dati. L'Africa subsahariana. Sono i dati. Ma di che ma parli? I dati di chi? I dati diffusi da tutti. Da tutti. Ma in Libia Marco c'è la guerra. Marco da Pisa. È una minima parte. Non c'è niente da fare. Manco di fronte ai dati. Marco da Pisa, dai. Allora, intanto Parenzo che dice che tutti sono collusi se qualcuno condivide qualcosa sui social. È una cazzata, dai. No, non collusi. È una cazzata. Sì, contribuiscono, non collusi. Contribuiscono. Ho detto complici. Complici. Vabbè, come complici. Quello che fa il palo mentre i ladri svaligiano le case. Non ripetere questa roba qua, che è una cosa veramente assurda. Uguale. Ripeto, io ho compulsato. Anzi, peggio anche. Ho compulsato e ho visto oggi, non con avidità perché non me ne frega niente, ma insomma con curiosità. Con curiosità le foto e i video della signorina di Letta Leotta, per un misto, ripeto, tra curiosità di vedere una donna conosciuta nuda, perché questa è una curiosità che tutti hanno ed è una cosa assolutamente umana. Ma sapendo che sono immagini rubate, quando lo vedo non lo so. Cioè, come no? Girano, dice guarda, c'è questo. Una volta, ho capito. Una volta che uno invece ha letto, come ho fatto io quando mi hai segnalato questa cosa, ho letto, non sono andato a vedere le immagini. Ma se vuoi della te le mando, collega, se vuoi ma te non le mando. Mi interessa. Ma se vuoi non te le mi interessa. Mando. Se voglio vederle, magari avrò occasione di vederle se mi fidanzerò con la signora. Se per caso la signora. Perché mostrerà... tu non hai mai guardato foto di donne nude in giro? Ma certamente, ma e non allora? Erano materiale contraffatto, non erano materiale che ha portato, come dire, violenza, ma dai, violenza psicologica a questa simpatica signora. Marco, che sta dicendo? Le cose sono due, molto importanti. Primo, se su internet ti regalano qualcosa vuol dire che stanno vendendo te. Che vuol dire, scusami? È semplice. I social, l'altro giorno Parenzo si lamentava del video di quella, sotto c'era la pubblicità di quella ragazza che poverina si è suicidata, sotto c'era la pubblicità. Ma quello, quello è un caso diverso, perché è andato a finire anche su alcuni video a pagamento, dei video porno a pagamento. Allora? Va bene, ma ricordiamoci. Vabbè, però non facciamo la spiegazione sociologica sulle cose, no. Cosa vuoi dire, Marco? Non ho capito, cosa vuoi dire? Quando si schiaccia accetto su un contratto di social, andrebbe letto il contratto. Va bene, ho capito, ciao Marco, Paolo da Verona, dai, a me tutti questi tecnici specialisti di internet mi stanno sui coglioni, dai. Senti. Paolo, dimmi. Mi senti? Sì, ti sento, dimmi Paolo, dimmi. Niente, no, dicevo, mi sembra che Parenzo sia proprio un moralista di merda, cazzo. Mi sembra che lei sia un coglione. A me sembra che lei sia un coglione. Ma lo dico e le chiedo anche scusa, perché forse il termine coglione è riduttivo per lei. Forse mi sbaglio, perché il termine coglione è riduttivo nel suo caso. Io non sono moralista per niente, per nulla. Mi piacciono le donne nude, mi piacciono le maialate più schifose, però non ne parlo in pubblico, primo. Magari le pratico, ma non ne parlo. Primo. Secondo, non vuol dire che sono moralista se critico foto frutto di un reato. È diverso. Imbecille. Salame imbecille che non capisce. Lascialo finire. Tu schiacci Parenzo Davide e viene fuori Parenzo Davide, Parenzo Davide anche moglie, pieno di fotografie di ogni tipo. Infatti sono quelle sono foto. Evidentemente quelle sono foto pubbliche che io stesso nel mio profilo ufficiale ho messo. Che c'entra col caso di cui stiamo parlando? Quindi ho messo in rete. Di che cosa sta parlando? Paolo, allora... Perché lei è così allora, stupido? Perché rete, tu schiacci Parenzo, schiacci Diletta, schiacci Reotta, ma schiacci Cruciani, compaiono un mare di fotografie. Ma quelle foto mie non sono per ora state rubate, quelle che ho postato, lo capisci o no? Non sono state rubate le sue, di lei, e le tue non sono state ma rubate. Ma se lo ha denunciato lei, stupido! Lo ha denunciato lei alla polizia postale, stupido di uno stupido! Ma perché allora, chiamano solo idioti? Tu, quello che voglio dire è che il problema non è denunciare questo o quell'altro, perché quando tu sei sul web ti devi prendere quello che c'è. Perché ma che c'entra, scusa? Ma cosa vuol dire? Chi ha messo le foto? Questo è stupido. Ma schiacci anche le foto di della Leotta, di come cazzo si chiama. Vengono fuori le foto in bikini di lei o di un altro. Ma cosa c'entra le foto in bikini? Sono quelle, che lei, sono quelle che lei ha voluto mettere, magari, no? Cioè, è una cosa diversa capito, rispetto... ma potrebbe anche essere che non sia così. Che vabbè. Qualcuno le abbia cioè, tu che messo, cosa capito? Vuoi dire con questa cosa? Che non è responsabile chi compulsa queste foto, chi guarda queste foto? Allora, se tu sai che c'è un responsabile, allora lo identifichi e poi lo dici chi è, ma così è tutta un'ipotesi che non vuol dire niente. Va bene, ho capito. Questo ciao Paolo. Ciao. Dire. Boh. Oh, eccoci qui, Giampiero Mughini con noi. Giampiero, buonasera. Evviva. Molto bene. Conosci una signorina che si chiama Diletta Leotta? Beh, sai, su Dagospia avrò visto 5.400 sue foto, sempre, diciamo, in una posa assai accattivante. So che fa la giornalista, ma io non la conosco come tale. La conosco come magnifica ragazza da immagini, diciamo... accattivanti, come ho detto prima. Cioè, stai dicendo che è più nota per le sue immagini? Beh, non credo che abbia un curriculum professionale strabiliante. D'altra parte, se avesse un curriculum professionale strabiliante, uno ricorderebbe qualcosa. Uno ricorda le foto, i tacchi 15, il bikini, questa cosa qui ricorda, non ricorda l'opera, insomma. D'accordo, però non è che... penso a Paolo Isotta, pensa a 10 libri perlomeno, quando pensa a Diletta Leotta no. Sì, d'accordo, Giampiero, però è anche molto giovane. E... ma sicuro avrà tutto il tempo, certo. Non dico di scrivere di libri, ma recitare in opere teatrali importantissime. Ma no, non c'è bisogno non di questo. Non mi pare che sia questo l'indirizzo. No, sì. È una donna di spettacolo che conduce una trasmissione. Donna di spettacolo, non esageriamo, farebbe la giornalista, una che fa la giornalista conduce, non fa uno spettacolo, lo spettacolo lo fa la stripteaseuse. Sì, d'accordo, questo è vero, però... Tu forse non conosci Rita Renoir, ai tempi in cui ero giovane Rita Renoir al Crazy Horse, insomma faceva giravoltare le teste a mezzo mondo. No, sì. Quello che vuoi dire tu è una cosa molto semplice, è conosciuta più per le curve... Io credo unicamente per le sue opinioni sul contropiede o che so io. Vabbè, ma tu la segui la serie B su Sky? No, io non seguo, mio figlio non seguo in TV, io trovo le trasmissioni sportive fra le cose più noiose che ci siano sulla terra. Beh, scusa. Eccezione fatta a quelle cui partecipo, certo, che se non altro essendoci io non possono essere noiose. Beh, sì, questo anche c'è giusto. C'è tutto il resto in cui tu non partecipi praticamente di una noia. Io vedo quelle cose lì che sono di una noia, ci sono 5 mammalucchi che pontificano, sì. È una bella ragazza messa in centro, sì. Così. Anche quelle dove ci sono, anche quelle dove... cose sono talmente ovvie, io non le guardo mai. Anche quelle dove vai tu ci sono delle ragazze messe lì, però non è che non dunque, ci sono, diciamo la verità, allora, perché ci vado ragazze, anch'io, perché sì, ci vado alle anch'io. Quali io ho detto una volta in diretta, ad alcune delle quali ho detto mormorato in diretta e mi hanno beccato purtroppo sciacquette. Sì. Sì, si sono accorte, forse tu c'eri, sì, io come no. Avevo mormorato. In effetti sì. Io avevo mormorato sciacquette. Sciacquette, però sì. Tu dici sì. Anche quelle in cui vai tu, ci sono quelle che tu chiami sciacquette. Oh, Dio mio, ma figurati se io voglio impedire a Mediaset di offrire ragazze accattivanti. No, per appunto, carità. Dico. Ma per però, carità, no, ma siamo partiti da un'altra cosa. Sì. Abbiamo parlato di una come posso dire, giornalista, io non so, però, sicuramente lo è, che però è nota per altri motivi. Bellissima sì. Ragazza, certo, mi sembra. Certo, hai ragione, mi sembra che di Botox ce ne sia a caterve, ma ormai il Botox, insomma, quella roba è lì, largamente sì. Accettato. Ma dici, cosa no? Me ne frega. No, per carità, no, assolutamente. Tu stai dicendo che è nota più per queste cose. No, queste, io dico unicamente. Unicamente per queste cose qui. Sì. E allora è successo però che alcune sue foto sono state messe ma praticamente. Sì, ma che cosa cambiano? Non mi pare che siano foto. Mica erano foto in cui stava facendo un pompino, no? No, quello no. Però allora... sono foto in cui c'ha le tette di fuori. Vabbè, la figurati oggi. Ma non farmi ridere, Giuseppe, con quello che abbiamo visto sul red carpet a Venezia. Dai, oggi più metti di fuori, più aspiri a diventare un senatore a vita. Ma magari non era la sua intenzione, esatto, però Giampiero, esatto, dai, esatto. Su, ma io che ne so, ma non mi pare che sia una cosa straordinariamente diversa da quello, diciamo, dal repertorio per cui lei è celebre. Detto questo, figurati, poi io non guardo nulla, io sono l'uomo più pudico e discreto del mondo, a me piacciono solo i video porno, perché quelli sono fatti da professionisti. Beh, diciamo che tra queste foto, oltre alle foto, ci sono anche dei video che non sono proprio porno, diciamo, però, insomma, sono delle video con due tette che ballano. Sì, ma questi sono veramente fattacci privati. Di cui appunto, io, essendo fattacci privati, poi invece sono diventati a disposizione di tutti. E che ci posso fare se no, tu no. Funziona così, Giuseppe? No, te la prendi con me? Per carità, però qualcuno dice è responsabilità pure della ragazza o addirittura di chi ha visto... Ah, que... non so, io come faccio a saperlo? No, d'accordo, però per esempio mi Parenzo... Mi pare che anche nel caso della Cantone, non è che la Cantone, diciamo così, aveva fatto tutto ciò in un nascondiglio. La Cantone, ahimè, mi dispiace tanto per lei, aveva fatto perché qualcun altro se ne giovasse e poi cosa tira cosa, probabilmente l'avrebbero chiamata all'Isola dei Famosi, si è detto poverina, poi naturalmente capito, quelle belve, quei cannibali, quei caimani. Però viviamo in un mondo in cui, diciamo, l'offerta del corpo femminile è ampia e abbondante. Ma tu chiuderesti internet domani mattina? No, no, no. No, quello no, no, quello no, ma quello non esiste, no, ma io uso internet, io che me ne strafego altamente, lo uso altissimamente, vado su Dagospia 10 volte al giorno, sì, guardo i video porno, qualche altra cosa, sì, se ma scusami, se devo cercare, l'altro giorno cercavo un libro sull'online, l'ho trovato, no, certo, l'ho trovato in 40 secondi. Scusa, che a proposito di video porno, qual è il tuo sito preferito in questo momento? No, cioè, non c'è un sito, io ogni tanto sento di qualche attrice e vado a guardare, per esempio ne ho scoperto una, aspetta che ti dico subito, perché no, io non vado in nessun sito, siccome lavoro tutto il giorno, ogni tanto mi distraggo, ho scoperto una che si chiama Anna Morna, meglio del pan di Spagna. Meglio del pan di Anna, Anna Morna, chi è questa? Una nuova, so, dopo so, Tori Black, una Anna bruna, Morna. Una bruna, un corpo magnifico, un'aria da sgualdrina intelligente. Io uso il termine sgualdrina in senso elogiativo. Sì, no, ma assolutamente. Lo sai, no, Parenzo sostiene una cosa, che chi è andato a guardare... Anastasia si chiama, però scusami, non... Come si chiama? Anastasia, Anastasia dice. Morna. Ma perché, scusa, Davide è divenuto un esperto di porno? No, però è, l'hai detto è andato... tu adesso, anzi, tutt'altro, l'hai detto andato... tu adesso, sono andato a vedere quello che sta vedendo. Ma io non... ce l'ho come Anna, Davide, poi non ho una sufficiente preparazione filologica sull'argomento. Ma alla tua età, dai, cosa ma perché, ma qual è il problema? Ma perché devi fare il moralista? Ma perché devi fare il moralista? Magari che sei incredibile. Ma che moralista? Tu hai la mia età in che senso, Davide? No, dico, scusami, Giampierone mio. Per usare l'espressione celeberrima, portami tua sorella. No, non ce l'ho. Non ho no, alla sua età, perché che cos'è? No. Fatidica, non può guardare i porno. Sì, non può guardare i porno alla sua certo, età. Certo, però dico, a una certa età uno c'è dovuto, magari si stufa di vedere quella roba. Dice, vabbè, ma guarda, tu cretino, ne ho fatte. Ma sei stupido. Ne ho fatte tante. La bellezza femminile vita, può stancare. Sì. Semmai no, scusa, con l'età, ma i porno... la raffinatezza giunge a tali livelli che tu non ti puoi neppure immaginare. Ma uno dice, guarda, siccome quello è un bel ricordo e ora non ma funziona più... Ma perché è bel ricordo? Non ho e capito. Ora, diciamo, Davide, non, sei avvilente. Non sei pratico più... Avvilente. Ma io voglio dire, ma una certa da si spegnerà cioè, quel desiderio. Aspira banalità le cose che dici che fa paura. Vabbè, e continuate a guardare il porno, che me ne frega. Ma perché no? Ma qual è il problema? Lo dice, ci mette la faccia, lo dice. Giampiero dice quello che tutti quanti fanno. Lui lo dice. A una certa età uno. Ma perché devi attribuire alla vecchiaia, diciamo, parliamo di vecchiaia, comunque al progredire dell'età una sorta di tabù o una chiusura verso queste cose. Non capisco. Carissimi di 75, non è il caso di Mugnini. Che 75? Mica c'ha 75 anni. Ma poi anche infatti, se uno guarda i porno a 75 anni, qual è il problema? Ma un sacco di amici di 75-80 anni che non è il caso di Mugnini, ripeto che è molto giovane, più giovane, ma un sacco ma che non, mi dicono, guarda, è un ricordo lontano, non vado neanche ma più a vedere questi porno. Io speravo di essere stato chiamato al telefono, comunque, non per sentire queste fesserie. Comunque, per carità, continuate a guardarlo, fate, ma fate quello che volete. Tanto ragazzi, più che lo faccio gratis, non vorrei sentire queste fesserie. No, per carità, ma fesserie, sai, fesserie se ne dicono se sempre. Se lo facessi a pagamento capirei, ma che gratis che mi è debba assorbire queste fesserie, no. E continuate a guardare. Però tu dici che queste foto della Leotta alla fine non sono molto diverse da quelle che abbiamo sempre visto. No, io non le ho viste e ne me ne frega nulla. Però vedi, francamente non è che interrompono una carriera accademica, la carriera di una studiosa, di una militante capito, del femminismo però radicale. Arricchiscono la scenografia di una bella ragazza perennemente in mostra. Sì. Io non ho mai visto una sua foto dove il suo corpo non modellasse gli abiti che indossa. Beata lei, ma se stai a un gioco stacci. Detto questo, ripeto, figurati la sua privatezza, ma la privatezza non esiste più in questo mondo di merda. Tutto è a disposizione però, di tutto. Scusami. Ne parlavamo l'altra volta. Sì, sì, ci certo. Sono siti Facebook che si spacciano per me. Io non posso far nulla. Sì, no, ma certo. Però vorrei dirti una cosa. C'è anche la vicenda Parenzo di Morandi. Sì, c'è la vicenda, la vicenda ho scritto è oggi su Dagospia. Sì, sì, no, ma voglio dirti una cosa. Parenzo, la conosce la vicenda Morandi? Io non sai come manco no, questo. Vicenda... Come no, allora, Morandi è andato a fare la spesa. Ma i social network idioti. No, ma non c'entrano niente i social network. Ma lui che pubblica le foto di se stesso che va a fare la spesa, è penoso. È penoso, è, dici. È penoso. Io ho scritto su Dagospia, non so chi sia più cretino, se lui che mette le foto che va a fare la spesa o quei bestioni che lo insultano. Va bene, cioè perché uno mette... Poi uno come lui che ha la sua carriera... A differenza della se diverte, Leotta, se lui diverte, ha un curriculum. Si diverte, dai. E deve arricchire questo curriculum con la foto. foto di lui che va a fare la spesa. Vabbè, ma nella vita non ho altro da fare. Ma si diverte evidentemente. Ma si diverte a che cosa? No, non si diverte. La vanità pazzesca del web, la vanità pazzesca, l'esposizione in vetrina permanente di ogni fesseria inezia. Corrompe anche personaggi come lui che hanno una storia artistica. Però, scusami Giampiero, lui va là, adesso lasciamo perdere la vanità che sicuramente c'è, lui va lì e va a fare la spesa. Ma quello è un mondo che funziona così, però scusami, ma lui è ancora più stupido che l'Accademia dei Lincei. Ma lui è ancora più stupido che dice sì, forse avete ragione, la domenica non devo più andare. Ancora più cretino, sì. Ma scusami, no, assolutamente il fatto che il vertice della cretineria dicendo così. Anziché dirgli figli di mignotta, ringraziate il cielo che viviamo in un paese dove per fortuna anche la domenica c'è qualcuno che lavora, qualcuno che vende e qualcuno che compra, a questi ignoti. Esatto, invece di dire una cosa così molto semplice, che cazzo dite, è meglio che siano aperti la domenica i supermercati, invece no, forse avete ragione voi. Ma mi vuoi rattristare la mia vecchiaia, come direbbe Parenzo? No, ma mi sembra veramente incredibile che uno non risponda, che uno per mantenere, per dare ragione a tutti, per dare alla fine ragione a tutti. Ragione ai followers. Sì, Però guarda, mi scrive una persona di cui non dirò il nome perché io mantengo la privacy. Mi scrive giustamente: non essere più schiavi dei sensi è una conquista. Finalmente si è davvero liberi. Ma questo cosa mi pare una cosa molto giusta, molto interessante. Non dico chi l'ha preso nella paga, o è un una extra. Cosa no, molto, secondo me è un extra. Io la reputo questa una cosa molto perché intelligente. È giusta. Comunque, ragazzi miei, continuate a vedere City Borno, fate quello che volete, non mi rompete a me le scatole. Ma sai, scusami, perdonami David, tu come sai, io la mia vita l'ho passata a scrivere libri e a leggerli, credo di averne letti almeno 50 volte più di ma te. Ma sicuramente, quindi, sicuramente. Fermi tutti, che dopo ti devo chiedere una cosa su De Luca, fermo lì. Per fa la vita meno amara, ascolto sempre La Zanzara. La Zanzara. Allora, siamo con Giampiero Mughini. Giampiero, ti rubo qualche minuto ancora, perché prima cosa, Parenzo che cosa ha detto prima? Parenzo ha detto, anche chi va a guardare quelle foto lì, le foto della Cantone, le foto rubate, della Leotta, partecipa a un delitto, è complice di un delitto, sì, mi sembra veramente una follia. Come chi compra la merce contraffatta. Ma è non è così, non è la stessa cosa. Complice di un delitto è un'espressione assolutamente fuori misura. Io ricordatevi, perdonatemi, che a proposito della Cantone non è che c'erano soltanto dei maniaci che andavano a guardare, c'erano anche dei giornali di alta responsabilità che hanno fatto autocritica, i quali hanno discusso la cosa. Perché oggi, una volta che il mondo del web ha la straripante potenza che ha, allora tutti ci si buttano. Io non sapevo neppure che esistesse questa povera ragazza, ma evidentemente, però complici di un delitto mi sembra veramente un'espressione fuori luogo. E uno che abbia una responsabilità, diciamo, intellettuale e comunicativa, l'espressione deve misurare. Scusami, Giampiero, scusami un attimo, se ti arrivano a te sul tuo telefonino, non ti arrivano, ma se ti arrivano le foto di questa signorina, che fai? Non le guardi? Le guardi? Se mi arrivi, sì, ma le guardo con una tale, diciamo, noncuranza, non è che ci metto sopra. Vabbè, ho capito. Ma io per curiosità oggi le ho viste, non c'è niente da fare, ragazzi, lo ammetto, l'ho visto, non mi sembro complice di nulla, non mi sento complice di nulla. Leotta, per fortuna non c'è nessuna tragedia, anzi c'è una carriera, c'è una notorietà, che probabilmente dopo queste foto aumenterà. Cioè, tu dici si apre una carriera addirittura, si aprono nuove possibilità. Ma scusa, quella lì che è sfilata... dirò seminuda perché il semi non ha nessun senso. A Venezia ho letto, può darsi che quella non l'ha fatto volontariamente, però una trasmissione. L'ha fatto volontariamente, però questa signorina, come dici? Lo ha fatto volontariamente. Beh, ancora peggio se è vero che le foto della Leotta gliele hanno fregate lei. Ma poi ripeto, se tu mi dici non è nell'atto di fare un rapporto orale, non capisco la differenza tra queste foto e le circa 2000. Ma no, quelle a seno nudo. Scusa, scusatemi, però, nudo. Ma scusatemi. Dio santo, il ma seno. Ho capito, ma lei non vuole, ma non vuole farmi vedere, scusatemi. Ma chi compra, ma chi compra la merce contraffatta commette un reato? Sì, risposta. Ma che c'entra? Sì. Ma in questo caso chi? Ma ragazzi, ma non, ma è talmente banale che mi vergogno di dover dire delle cose banali. Ma io però non mi ho pare comprato nulla, arrivano, girano sul web, non ho comprato niente, non ho comprato nessuna foto, le ho viste, le ho consultate. Se sai che quelle foto, visto che la ragazza, di cui neanche ricordo il nome, ha denunziato la polizia postale il fatto di aver subito questo furto di foto, cioè di identità, allora? Perché di questo parliamo, perché una può fotografarsi come vuole, che ne sa se quella ha denunciato, però, uno che ne sa se quella ha denunciato la polizia postale. Capito, una volta che la ha denunciato, io ho detto che andare a vedere quelle foto, ma è, dai, ma non è come non è comprare così la merce, ma non contraffatta è vero, ma non è basta così esserne consapevoli, ma non è così. Vuoi essere un ladro? Sei un ladro. Senti, benissimo, voglio sapere da Giampiero una cosa, come giudichi Salvini che ha dato del traditore a Ciampi? Una sola parola. Beh, una sola... Allora, io l'ho già detto ad altri amici, perdonami Giuseppe, dimmi. Ho visto che il povero Di Cagno, di cui tutti sapevamo che non era un ex partigiano comunista o militante di Fondazione Comunista, eccetera, è un ragazzo che crede in quelle sciocchezze. E allora questo ragazzo, senza fare del male a nessuno, si è tatuato sul braccio la parola Dux. 20 anni fa. Tutto, però è successo. Non mi pare che trafigga le anime. Gli hanno tolto un lavoro. Sì. Quell'energumeno, il morto di uno delle, di una delle figure più degne, eccetera, ha detto quest'uomo andrebbe processato per avere tradito 50 milioni. Che un tale energumeno, la faccia franca, è un povero ragazzo il quale non ha fatto il male a nessuno, come Di Canio che conosco benissimo, ma è pazzesco, è un mondo che è impazzito, cioè, è un mondo che è impazzito. Andrebbe Salvini che sarebbe, dovremmo togliere il seggio. Allora, un giocatore che fa un fallo grave in una partita, poi gli danno 8 giornate di squalifica. Sì. Salvini, per aver detto queste cose, 2 mesi di assenza dal dibattito pubblico, con vantaggio di noi tutti, glielo si potrebbe dovrebbe essere, combinare. Tu dici che tutti quanti dovremmo metterci d'accordo per 2 mesi fuori dalle trasmissioni. Ma 2 mesi fuori dalla vita pubblica, dalla vita civile, che sarebbe poi un guadagno per ma tutti. Uno dice, scusa, uno dice un'opinione, uno dice quello è traditore. Ma perché quella non è un'opinione, perdona, è un'ingiuria, è una scemenza. E poi no, le opinioni, perdonami Giuseppe, se io dicessi di te che tua madre fa in via Salaria, non è un'opinione. No, beh, capito, ma non ha detto la stessa cosa, però devo dire la verità. Ah, non ha detto la stessa cosa. Ma no, cosa. Ha detto che secondo lui ha tradito, che andrebbe processato. Ma perché secondo lui ha tradito l'Italia? Ma lui è entrata nell'euro, ma tu capisci la puttanata che ha detto? Sì, ma può essere. Possiamo discutere come vogliamo. E appunto quello dice, ma siccome secondo lui chi ha portato l'Italia nell'euro è un criminale. Ho capito, è un criminale. Allora le parole non hanno più senso. Quindi avere ucciso una persona o avere sbagliato una politica è la stessa cosa. No, ma certamente no. Infatti, ma poi Salvini va a insegnare l'economia a Ciampi? Ma dai, ma dai, c'è un limite a tutto. Dai, certo. Ma c'è un limite a tutto, dai, sì. Giuseppe. Senti, Giampiero, vogliamo fare. Salvini va a insegnare l'economia a Ciampi. Vogliamo fare un. Vogliamo fare capo del mondo, signor De Luca, governatore della... Sì, per me, io qualsiasi cosa, quel monologo shakespeariano è fra le rappresentazioni teatrali più grandi che abbia mai visto. Shakespeare allo stato puro, cioè Albertazzi ha raggiunto quelle vette, sì, ma insomma De Luca come se niente fosse, dice ma quello gli faceva domande, ma se era un monologo shakespeariano, esatto. De Luca per me è immenso. Se vogliamo fare io e te i cortei. ciao Giampiero, ciao Davide, ciao carissimo, ciao caro, ciao. Ragazzi, vai, Luca, provincia di Reggio Emilia, e la battaglia, ragazzi, non è finita, siamo qui ancora 50 minuti a battagliare, vai Luca, vai. Ciao, forza. Giuseppe. Dai, ciao, sembra. Giuseppe, io già ho faticato tantissimo oggi, non so perché. Pure te, Davide, ti vedo affaticato. Vai, Luca, vai. Stanchissimo di sentire puttanate. Parenzo, volevo solo farti questa osservazione qua. Sentiamo. Allora, io premetto che stamattina ho ricevuto avanti tutte quelle belle fotografie. Sì. La trasmissione si chiama Dove poi vieni avanti cretino, forza. Ma adesso prego. Che ha detto, non ha detto giorno. Niente, dai. Vediamo, no, vieni avanti cretino, forza. Siamo in due ad andare avanti. Mettiamo la musica di Lino Banfi del film, straordinaria. Sì. Vieni avanti cretino. Ascolta, ma visto che dici che sei tanto puritano, che no, poi io non sono puritano per niente. Chiedi a tua sorella se sono puritano. A fare questa trasmissione, no, ho un fratello. A fare questa trasmissione non fai altro che rendere e pubblicizzare ulteriormente, anche se state facendo una specie di giornalismo, non fate altro che pubblicizzare ulteriormente quello che è successo. Quindi chi che c'entra? Anche questa è una puttanata. Questa no, è una puttanata, perché è una discussione intorno a una cosa che è successo. Dai, su. Fino a che non dice? È cominciata la trasmissione, anche se non aveva ricevuto le foto, non sapeva un cazzo. Ma non c'entra nulla, dai, su. La nostra trasmissione non ha fatto altro che andare. Premetto che io le ho guardate, le ho diffuse. Ma cosa stai dicendo? E non me ne frega un cazzo, però. Ah, le ha anche diffuse. Le ha diffuse, sì, le ha diffuse. Non aveva niente da fare che non diffondere queste foto. No, avevo l'uccello in mano e volevo condividerle. Come avevi l'uccello in mano? Scusa, allora, non ho capito. No, non avevo l'uccello in mano. Ma che schifo, dire. Ragazzi. Però, siccome, non ho modo di dire del suo caso, temo di no. No, siccome nel suo caso, temo di no. Condivide, rende, è talmente uno sportaccione che... A parlarne è la stessa identica cosa, perché non fomenti altro. Ma che ragazzi, però non diciamo puttanate. Non è la stessa cosa parlarne in una trasmissione. Dai, no, su, Luca. Per me non hai commesso nessun reato a vederle e a diffonderle. Certo, nessun reato. Sei curioso, sei una persona curiosa, morbosa anche. La morbosità fa parte di questo mondo. E bisogna essere consapevoli, però. D'accordo, però perché tu non sei mai morboso? Ma sicuramente, ma di alcune cose non sei mai morboso. Ma bisogna essere. Non sei mai morboso, va bene. Ma siamo che di fronte morboso all'essere perfetto, che non è mai morboso. No, ma io sicuramente sono morboso su alcune cose, ma ho la consapevolezza che non compro merci contraffatta in spiaggia, ad esempio. Storia, ma ho questa consapevolezza. Sbaglio? Può essere. Va bene, però Luca, che cosa compro vuoi aggiungere? È un reato grave? No, ma è un reato. No, solamente che io parto dal presupposto che, come tutte le cose, più se ne parla in qualsiasi ambito. E più, non puoi tenere nascosta una cosa. Ma questa è una puttanata, parlando. Le trasmissioni esistono per parlare e alimentare discussioni. Abbiamo opinioni diverse e qui ve le presentiamo e ve le esponiamo. Dunque, non alimentiamo nessun mercato. Ciao Luca, ciao. Scusate, toglietemi tutto, ma non la zanzara. La zanzara. Da Varese versus Alba Parietti 100-0. Io voglio Donato da Varese Papa. Avviso importantissimo a tutti gli alberghi a 5 stelle. Ripeto, avviso importantissimo. C'è in giro un tale David Parenzo che va in giro negli alberghi di lusso solo per andare a cagare. Vi prego, arrestatelo. Allora, leggo che il Partito Democratico vuole portare addirittura in tribunale Salvini per la frase Ciampi traditore degli italiani. Giusto. No, dai, su, ma non puoi sempre basarti sui tribunali, David. È una la frase, gente, puoi... politici e non, devono cominciare a essere responsabili delle, responsabili delle cose ma che dai, fanno. Su. Non esiste la libertà di insulto, non esiste, deve essere sanzionata. Ma è una cazzata, perché dai, altrimenti su il mondo diventa una fogna se non c'è la responsabilità. Se avessero pubblicato le foto di vostra figlia, di vostra sorella, di vostra madre, non staremmo a commentarle in questo modo, come stiamo commentando ora. Ma che c'entra ora adesso questa cosa di Salvini? C'entra. Perché c'entra anche la cosa di Salvini, cioè la responsabilità. Lo è una porti in tribunale chiave. la moglie di Ciampi si è sentita offesa. Ma il Partito Democratico cosa cazzo c'entra? Non era manco del PD Ciampi, dai. Che c'entra? Perché è un padre della patria e non si sputa sui padri della patria così, perché devi prendere qualche voticchio in più, perché devi fare la tua ruspetta, la tua roba. Responsabilità ci vuole, responsabilità. Sì, ma lascia perdere la parola responsabilità, non dire baggianate anche. Non dire anche cose banali, dai, che cosa c'è? Sarà anche banale, ma è una deve... banalità quella che dici. Lascia perdere questa roba qua. Che devi dire? Ci vuole responsabilità. Ma chi sei? È il ci presidente vuole della Repubblica? No, però lo querelo, come ho fatto con qualcuno che mi ha insultato pesantemente su Facebook. Ma cosa c'entra? Portare c'entra in tribunale uno che ha detto, ha espresso un'opinione politica molto forte. Hai un'opinione politica? Ma è un'opinione politica, cioè, detta da Salvini. Ma è un'opinione politica, scusami, è un'opinione politica. Io difendo la libertà di Salvini di dire quello che vuole senza essere portato in tribunale dal Partito Democratico. Quindi i politici possono essere anche non razzisti. Ho detto ma dai, no, ma in generale voglio capire. Allora, i politici, a differenza degli dei normali cittadini italiani, possono essere razzisti. Allora, ma che c'entra il razzismo, Tati? In questo caso normale, non c'entra niente. No, io dico che un normale cittadino italiano come me che dicesse cose come quelle di Salvini non sarebbe passibile in tribunale. Non ti portano in tribunale. Sarebbe passibile di querela. Ma non ti porta, ma cioè, perché? Io... Ma non è vero. Perché ma non è sì, vero. Perché se io dico rom puzzone, rom di merda, eccetera, giustamente qualcuno mi prende e mi porta cosa in tribunale. Cosa c'entra? Quello ha detto traditore degli italiani quello perché ha portato l'Italia nell'euro, è un'opinione politica. Ha detto traditore forte. Al presidente Ciampi, pace all'anima sua, grande capo di Stato. Ma cosa c'entra questo? Uomo, cosa c'entra? Ha offeso la memoria di una persona e giustamente ma che un partito PD, ma la moglie di Ciampi lo può portare in tribunale. Ah, sì, è una follia, dai, una follia. Allora, voglio fare un esperimento. Fatemi questo numero, fate quel numero che vi ho detto. C'è la segreteria, riproviamo. Riproviamo 388, quello là 388. Poi c'è un 1 davanti. Staccato, peccato, volevo fare un esperimento, Fermi lì. Traffico veicolare. La zanzara. C'è un parroco, passiamo ad un'altra storia, tremenda, terribile. C'è un parroco che oggi ha 62 anni, si chiama Don Genova, Don Marino Genova se non sbaglio. Nel 2009 comincia ad avere rapporti sessuali con una ragazza di 13 anni. Siamo nella parrocchia, in una parrocchia in provincia di Campobasso, Porto Cannone. Lei si chiama Giada, lui ripeto Don Marino Genova. La ragazza è orfana, denuncia tutto solo dopo qualche anno, quando ha 17 anni, per motivi vari. Qualche giorno fa c'è stata una sentenza incredibile, in realtà qualche settimana fa, la cosa però è stata resa nota da poco. Secondo un giudice di un paese che si chiama Larino, il parroco che ancora indossa la tonaca, cioè ancora è in attività e in carica, il parroco, secondo questo giudice, il parroco e la ragazza avevano una relazione amorosa. Lei era consenziente e dunque il parroco è stato scagionato da ogni accusa. Ripeto, questo parroco palpava, aveva rapporti sessuali con una ragazza prima di 13 e poi di 14 anni e poi è stato assolto. Allora David, siamo con Giada Vitale, sì. Che oggi ha, quanti anni hai? Buonasera, ciao Giada. Buonasera, ho 21 anni. 21 anni, allora, giovane. I fatti risalgono al 2009, giusto? Sì, certo. Come inizia il tuo rapporto con Don Marino? Beh, io ero organista della parrocchia. Sì. Quindi mi recavo almeno 2-3 volte a settimana per le prove del coro. E lui così ha cominciato, diciamo, a molestarmi, così portandomi in sacrestia. E sì, tu all'epoca avevi quanto? 13 anni? Avevo sì, 13 anni. 13 anni. E ha subito iniziato a palpeggiarti, a proporti di andare a casa sua. Cosa è successo concretamente? Diciamolo in maniera anche cruda, un po' per far capire alle persone che cosa significa essere molestati. Sì, certo, lui praticamente prima ha cominciato così a guardarmi, a avere questi. Poi un bel momento, cioè, mi prende la mano, mi porta in sacrestia e mi sbatte sì contro il muro e comincia a strusciarsi, a scogliarmi anche. Ma dopo quanto tempo hai iniziato a avere dei rapporti sessuali con lui? subito dopo i 14 anni, perché i fatti sono cominciati ad aprile 2009, sì. Quindi poi io 14 anni li ho compiuti al 20 giugno 2009, sì. Insomma quei due mesi sono andati avanti così. Con palpeggiamenti, toccate? Sì, mi spogliava, insomma, poi andava anche al bagno, ricordo. E che faceva in bagno? Per pulirsi. Ah ok, ma si masturbava davanti a te? No. Però si strusciava, sì. Fin quando non... Non veniva, insomma. Sì. Ma hai fatto anche sesso orale con lui prima dei 14 anni? Prima no, prima subito no. Dopo i 14 sì. Comunque, i primi rapporti completi quando ci sono stati? Dopo i 14 anni dunque? Sì, esatto, subito dopo i 14. E per lei quanto... non ha detto niente ai suoi genitori? Non ha denunciato niente? Io vivo solo con mia mamma, perché comunque da poco avevo perso anche mia nonna nel 2008. Quindi lo dissi a mamma, però non mi credette, quindi io stavo molto male, piangevo, grazie. Quindi poi non... Sì, e per quanto tempo sono durati questi rapporti? Circa 4 anni. E dove avvenivano? Sempre a casa sua oppure anche, ne so, in chiesa, da qualche parte? Dove? In sacrestia e a casa sua. Addirittura, in sacrestia? Sì, certo, in sacrestia. Mamma mia. E anche per esempio quando suonavo l'organo lui veniva vicino e mi toccava, mi... Cioè avete avuto un rapporto completo anche dentro la chiesa? Sì, certo. E questi rapporti sono andati avanti per quanto tempo? 4 anni. È possibile che in 4 anni, per carità, eri piccola, in 4 anni non hai detto niente a nessuno tranne una volta a tua madre? Esatto. Ma perché avevi paura? Perché cosa? Praticamente io entravo in confusione. Non... molto difficile da spiegare. No, beh, certo, eri come dire, quasi soggiogata, no? Immagino. Sì, certo. Cioè, non capivo cosa volesse da me, capito? Ma cosa ti diceva? Che ti voleva sposare? Che ne so, che voleva un figlio da te? Cosa ti diceva? Anche, sì. Lui diceva che mi voleva molto bene. E che... sì, appunto, un giorno mi disse, dice, io voglio mettere incinta, voglio un bambino. Ma quante volte siete stati insieme? Hai fatto un numero? Hai mai fatto un numero di quante volte? No, cioè... Tante volte? Sì, impossibile. Tutte le settimane. Tutte le settimane, addirittura? E non poteva rifiutarsi di andare lì in chiesa da questo qui? Ma non ci riuscivo, perché praticamente io mi sentivo un robot nelle sue mani. Cioè, come se insomma, gestiva lui il mio cervello. Sì, no, certo, lo capisco. È una sensazione bruttissima. Certo. Ma adesso dove sta lui? Lui ora sta a Termoli, tranquillo e spensierato. Ma è ancora prete, però? Sì. Perché praticamente l'avevano sospeso a Divinis per 2 anni, però poi gli hanno ridato i sacramenti. Ma tu che cosa provi nei suoi confronti? Tanto odio, tanto... Cosa vorresti, che morisse? No, per l'amor di Dio no. No, ma cosa provi? Vorrei un minimo di giustizia, ecco, perché io veramente sono stata molto male, sto ancora molto male, sto prendendo ancora psicofarmaci per causa sua, mi ha rovinato la vita. Sì, perché la questione è questa, un giudice ha detto che i vostri rapporti dai 14 anni in poi erano praticamente dei rapporti consenzienti, dei rapporti d'amore, questo è il sì, punto. Sì, esatto, il giudice dice che praticamente dopo la mezzanotte del 20 giugno, quando compio 14 anni, divento così all'improvviso consenziente. Dice che prima non lo ero, poi divento così. No, ma erano rapporti quasi amorosi, di relazione amorosa. Ma io ve l'ho detto, cioè all'inizio lui... No, ma questo è quello che dice il giudice, naturalmente. Cioè tu non hai mai provato nessun sentimento per questo parroco? No, cioè io, l'avete detto bene voi prima, ero soggiogata, cioè anche non riuscivo a ribellarmi, perché lui appunto mi diceva ti voglio bene, insomma è come se ero imbambolata. E cosa pensi di questo giudice, di questa sentenza? La sentenza è veramente schifosa, perché lui poi dice che... lo assolve dicendo che non era uno psicologo e quindi non poteva riconoscere il mio stato psicologico. Ho capito, ma comunque ti toccava, aveva rapporti con te anche prima dei 14 anni, sempre sesso, no? Cioè, toccare una bambina di 13 anni... Beh, certo, poi batterla al muro e farci quello che, quello che voleva, comunque non... Ma tu da quel momento in poi sei riuscita ad andare con un altro uomo, hai dei rapporti, hai un fidanzato oppure no? Non riesci proprio? Non riesco. Non riesci assolutamente. Ma lo vorresti vedere in galera? Lo vorresti vedere in galera il prete? Certo. certo, io voglio che paghi per il male che mi ha fatto. Oggi che fai tu? Io ho ripreso a studiare pianoforte al conservatorio. Sì. Perché avevo lasciato, appunto, perché stavo male, sono stata veramente molto male, avevo lasciato anche gli studi. Sei credente per o no? Per causa sua. Io cioè credi tanto, ancora, frequenti la parrocchia o no? No, no. Non io mi sono anche sbattezzata. Ti sei anche sbattezzata? Sì, questo sì. È buono, eh? Sbattezzarsi va sempre bene, Parenzo. Beh, no, poveretta, adesso. Beh, si è sbattezzata perché non crede più, immagino. Beh, non no? Crede più perché dopo quello che ha subito è difficile credere per una. Senti, donna, ma la Chiesa come si è comportata con te? Ti ha risarcito? Ha pagato qualche cosa oppure no? No, no, niente. Per adesso no. Niente? No. Niente, manco un euro ti hanno dato? No. Tu hai mandato una lettera a Papa Francesco, però non ti ha risposto. Non mi ha risposto, una gliel'ho consegnata proprio personalmente durante l'udienza. Nel 2013 hai mandato una lettera, se non sbaglio. Nel 2013. Sì, esatto. Mai ricevuto una risposta da Papa Francesco? Niente, no. Nulla. Ma Papa Francesco nulla. Chiama tutti, adesso non chiama te. Veramente è incredibile questa storia. Ma non sto scherzando. Quando si tratta di preti pedofili non telefona nessuno. Perché dici che non telefona nessuno? Quando si tratta di preti pedofili, no. Non lo so, ma in teoria no, in teoria uno che si dovrebbe battere. No, lui ha fatto molto per quello. Sei delusa da Papa Francesco? Sei delusa? Sono delusa, certo. Fagli un appello, dai, fai un appello a Papa Francesco. Papa Francesco, rispondimi, aiutami, chiamami, tu. Aiutami tu. Rispondami, chiamami. Qui nessuno ha fatto niente, insomma, c'è stato un processo canonico che poi alla fine, cioè, non abbiamo risolto niente perché comunque lui adesso è ancora sacerdote, non è stato ridotto allo stato laicale. Va bene. Questo non va bene. Va bene, grazie, ti abbraccio, ciao, a presto, ciao, ti abbraccio. A presto, presto. Allora, questa ragazza che avete sentito ha mandato una lunga lettera al Papa in cui dice di intervenire, racconta tutta la sua storia. La cosa incredibile è che questo parroco, che per carità è stato per adesso scagionato, ma secondo me in maniera assurda, perché dopo i 14 anni, secondo il giudice, era consenziente. Ma come può essere consenziente una ragazza di 14 anni? Mi spiegate come una ragazza di 14 anni in quelle condizioni può essere consenziente? Allora, questo giudice, lasciamo perdere, va, che non mi voglio fare querelare, questo giudice secondo me non ha capito nulla di come avvengono queste cose. La seconda cosa ancora incredibile è che questo qua sia in circolazione, cioè sia in circolazione nel senso come prete, sì, cioè come è minimo, ancora avrebbero... prete, cioè... è ancora prete. Tra l'altro, ha ammesso tutte le cose, non è che non le ha ammesse, cioè ha ammesso che ha avuto questi rapporti. Cioè, già il fatto che questo prete abbia ammesso di avere rapporti con una ragazza di 14 anni, amico mio, certo. Cioè almeno la Chiesa doveva intervenire. La toga, no? Via la toga, via la tonaca, no, la toga, non la toga, amica magistrato. Ma via allora, la tonaca. Sull'audio che abbiamo trasmesso ieri di Pellegrin di Radio Padania, quello che ha detto di chi? Meglio essere governati dalla mafia che dallo Stato. Ah, ho capito, è il momento del disgusto alle 20 no, e 28. attenzione, qualcuno vuole intervenire per togliere le frequenze a Radio Padania. Ottimo, benissimo. No, va bene, io invece devo dirti ma una cosa. Ma per forza, devo... tu difendi allora, io, no, io... qualunque cosa, ti fanno no. La cacca davanti al portone, dice no, benissimo, no, no, me no, l'hanno no. Fatta. Attenzione, io voglio... Ti fanno la pipì sul portone di quando esci di casa, bene, giusto, sì, giusto fare la pipì davanti per strada, ottimo, bravi, ottimo. Ma io dico una cosa, no, è molto semplice, secondo me va tolto il finanziamento pubblico, che è un'altra cosa. Quello andava già fatto prima. Quello sempre va tolto. La seconda cosa che voglio dirti è che però non è che va tolta, non è che va spenta la frequenza di Radio Padania per questa puttanata spenta, che ha detto Pellegrin. Nessuno no, sentirà dai, la ragazzi, mancanza, posso su. Dirti. Nessuno. Risentiamo Pellegrin. Risentiamo Pellegrin. Preferirei davvero essere governato dalla mafia piuttosto che dallo Stato italiano. E questa è la mia posizione. Preferirei la mafia. La provincia, la città anche, nella quale vi è il minor numero di furti in appartamento è Palermo. Beh, al di là delle considerazioni su Palermo, che secondo lui, essendo governata dalla mafia, ha meno furti negli appartamenti, ma al di là di questo, allora, Pellegrin ha tutto il diritto di dire questa cosa qui, senza che venga spenta la frequenza di Radio Padania, però siccome lui pensa di non voler essere governato dallo Stato, ma vorrebbe essere governato dalla mafia, non prendesse un euro di finanziamento pubblico e non ci rompessero i coglioni. Anzi, restituisse indietro tutti i soldi che hanno preso il finanziamento pubblico, chiaro? Siccome secondo lui lo Stato è peggio della mafia, dietro tutti i soldi, indietro tutti i soldi, Pellegrin, indietro tutti i soldi che avete preso. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading. Vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Caffè Society, il nuovo film di Woody Allen dal 29 settembre al cinema. La Zanzara. bello Crucians. Ieri sera pasta e fagioli e stamattina sono ancora nel letto. Forno olandese. Non mi voglio più alzare, siamo al top. Ma Cruciani, non c'è cosa più bella al mondo di fumarsi la propria erba autoprodotta mentre mi ascolto la zanzara. Ma che cazzo vuoi? Allora, Giuseppe, David, io sono un ingegnere, quindi subito mi sono applicato quando ho ascoltato e effettivamente mi sono seduto sul cesso e con squadra e goniometro, ma anche compasso, perché ho voluto fare le cose per bene, ho controllato di aver raggiunto i 35 gradi positivi di inclinazione e vi dirò, oltre al notevole comfort che ho provato, il cagotto è uscito con una velocità di 12 metri al secondo, quindi insomma è una velocità ottima e in un tempo molto minore del solito, quindi a quanto pare il primario aveva ragione. Da quando ascolto la zanzara vado al cesso col goniometro. Cari miei, siamo al top. Come cagano gli italiani? Direi che è un tema molto interessante. Molto molto interessante, che sottoporremo a urbi e torbi a tutti nei prossimi giorni, cioè qual è la posizione esatta, che sensazioni provano, non eccetera. Mi pare una grande inchiesta, francamente. Una grandissima inchiesta, come cagano gli italiani, come vanno Pasolini, a cesso. Pasolini fece i comizi d'amore, come tu ricorderai. Va bene, uguale, d'accordo, ma Pasolini la zanzara, cosa. Non me ne frega niente di Pasolini, a me Pasolini è morto e invece noi siamo vivi ancora, scusami, abbi pazienza. Roberto da Padova. Pronto? Roberto, vai, dimmi. Ciao Cruciani. Senti, ho telefonato perché volevo darti la mia opinione sulla morte del ex presidente Ciampi. Sì, quale sì. Io rivolgo le mie condoglianze. Vabbè, adesso le condoglianze non ce ne può fregare di meno perché sono passati alcuni giorni. Perché fai le condoglianze però? Perché devi dire qualcosa di tremendo, perché, sicuramente. No, perché mi sembra corretto come persona rivolgere. Va bene, però adesso è la zanzara questa qua, non però, è che dobbiamo fare le condoglianze, certo. A Ciampi, dai, su, no, amico mio, dai. Però devo dirti che Salvini, sì. Gli farei un monumento, forse ho usato un termine un po'. Però la cosa è strana, tu fai le condoglianze a Ciampi e poi vorresti, certo, fare un monumento, no, a Salvini, perché scusami. No, faccio le condoglianze alla signora Ciampi perché le è mancato il marito e questa è una cosa. Vabbè, poi? Sull'aspetto professionale. Cioè, secondo te era un traditore però? Era un traditore? No. No, ma allora scusa, se vuoi fare un monumento a Salvini, mettiti d'accordo col cervello, amico mio. No, no, ho detto appunto che Salvini ha esagerato. Ma sei detto che gli vuoi fare un monumento? A Salvini? Certo, perché è stato l'unico politico italiano che ha avuto il coraggio. Sì, ma ti devi mettere d'accordo col tuo cervello, però. No, Parenzo, no, scusa, ho ragione o no in questo caso? Si deve mettere. Totalmente ragione. Totalmente, anche se capisco che questo Roberto dice da un punto di vista umano, lui dice da un punto di vista umano devo fare le condoglianze alla persona. Vabbè. Poi lui distingue la persona dalla carica e da quello che ha fatto, e questo ci può stare, che Roberto, che non mi pare un fulmine di guerra, ma insomma ha detto una cosa a suo modo intelligente, cioè dice un conto è la funzione che lui ha svolto, che io posso criticare, un conto è la persona dal punto di vista umano. Vabbè. Questa è la distinzione che ci sta. Quindi, Maurizio Salerno, vai. No, allora, scala Roberto sto qua. Sì, sì, ma no, poi c'è un altro adesso, Roberto, l'ho liquidato. È doppio fascista. Se io vado a prostitute mantengo in piedi il tema criminale che sfrutta le donne. Se lui compra il fumo, anzi lo comprare perché non va in mezzo alla strada, fa, come dire, una battaglia di libertà. Allora facciamo la battaglia libertà. Di libertà. Basta anche una B. Pure sul altro versante. Basta una B. Ma lascialo parlare come vuole. Libereremo, basta sempre una B. Una volta che il sistema sarà legalizzato, queste donne dallo sfruttamento. Cioè, non ho capito qual è, cosa dici. Puoi ripetere un attimo, puoi riassumere, allora, Maurizio. Se Parenzo compra il fumo perché fa una battaglia di libertà, perché vuole liberalizzare la droga. Legalizzare, e quindi, sì. Legalizzare la droga, liberalizzando. Leggera, e quindi sì. Togliere l'acqua ai pesci del sistema illegale del traffico, sì, della, sì, droga. Sì, sì. Se liberalizziamo la prostituzione, facciamo anche noi questa battaglia di libertà. Assolutamente, vabbè, io sono d'accordo con tutte e due le cose, però, sia con la droga che con la prostituzione. Però il ragionamento che lui ha fatto all'inizio della trasmissione, cioè, lui era dice veramente come, È come come dire, guardare le foto della Leotta o della Cantone, il video della Cantone, è come essere complici di un reato. Questo è il punto. Collusi, no, complici, quello che è. Perché a parte che io non vabbè, so. Abbiamo già discusso per un'ora e mezza di questo, no, Maurizio. Infatti, un'ora e mezza che abbiamo discusso. Una battaglia di libertà sulla prostituzione, facciamolo anche per le prostitute. Ma a me lo dici? Cioè, con me sfondi una porta aperta. Ma Parenzo considera chi va a un miserabile chi va a prostituire, però è d'accordo con la legalizzazione. Esatto, bravo, è d'accordo bravo. Con la legalizzazione. Vabbè, secondo me è una contraddizione spaventosa, però comunque vabbè, no, tutt'altro, perché riduce lo sfruttamento almeno. Avete mai viaggiato accanto a un ciccione, Parenzo? Hai mai viaggiato accanto a un ciccione in aereo? No. Allora, è successo che un avvocato padovano, forse lo conosci, si chiama Destro, Giorgio Destro. Io conoscevo Giustina Destro, che è stato il sindaco di Padova. No, questo è un avvocato. Ha viaggiato per alcune ore, un volo intercontinentale, 9 ore credo, sì. Da Città del Capo a non so dove. Ed ha il suo compagno di viaggio, cioè nel sedile accanto, era uno sovrappeso. Questo ha fatto causa ad Emirates, vuole dei soldi, in tribunale addirittura il giudice di pace di Padova, non so che vediamo, cosa sulla base di che cosa mo lo sentiamo, mo lo sentiamo. Vediamo. Chiamatemelo Destro, l'avvocato Destro. Avvocato? Sì? Buonasera, mi chiamo Cruciani, come va? Io bene. Leggo qui delle cose incredibili, che lei ha avuto un viaggio incubo. Ma sa, non è la prima volta e non credo di essere l'unico a dire il vero. Purtroppo però stavolta è successo a me. Cioè, lei ha viaggiato accanto a chi? Scusi, ci spieghi un attimo. Allora, io ho fatto un volo da Cape Town a Dubai. Sì. Mi siedo al posto assegnato, come risulta dal biglietto, là, della certo. Barco. Fino a un certo punto alla mia sinistra non c'era nessuno, ho detto oh che bello, finalmente mi faccio un volo tranquillo. Oh, invece colpo di scena, viene un gigante, perché non ma un gigante che vuol dire un gigante, scusi? Un gigante vuol dire un signore alto 1,80 m, largo di più di un sedile, tant'è che usurpava il mio posto per almeno la metà. Cioè un obeso, lei dice? Un obeso. Beh, dov'è il problema, scusi? Cioè praticamente lei ha passato quante ore insieme a questo signore? Il volo dura 9 ore, un po' le ho passate con sto signore, poi mi sono alzato, sono andato a chiedere al capo cabina di poter avere un altro posto, mi dicono che non ci sono, il volo è pieno, che posso sedermi ogni tanto nel sedile riservato alle hostess. Insomma, non ha dormito nemmeno un secondo, avvocato? Vabbè, dormito almeno, sono stato in piedi, anzi... parecchio tempo. Cioè, però scusi, amico mio, quanti soldi chiede a Emirates? Allora, io ho fatto una citazione davanti al giudice di pace di Padova, il 20 ottobre, e ho chiesto il rimborso del biglietto e 2.000 euro di danni. 2.000 euro di danni? Siamo io capisco che lei è esperto di queste cose e ha citato in tribunale pure il signor Toscani, se non sbaglio, no? Per la vicenda Sì, infatti sto aspettando la sentenza. Ecco, capisco che lei è esperto, per carità, è avvocato e tutto, però adesso gli obesi hanno pure diritto a viaggiare in aereo, no? E chi glielo toglie? Nessuno glielo toglie. Che devono fare? Comprare due biglietti, un obeso? Sì, per regola sì. Ma come per regola? Cioè, secondo lei chi pesa, che ne so, 100, quanto pesava questo qua? No, mica l'ho pesato. Sta di fatto che un 150 kg non gli ricava nessuno. Allora, insomma, secondo lei questo qua avrebbe dovuto comprare due biglietti? Ma questa è una regola adottata da tutte le compagnie aeree. Dunque le hanno messa accanto un ciccione e lei vuole i danni, questa è la sostanza. Ma voglio i danni, non perché mi siede vicino un ciccione, perché il posto è tale che io non posso usufruirlo, tant'è che per metà mi vedo un braccio, lo si vede da una foto selfie che ho fatto, che arriva a metà del mio sedile. Scusi, ma durante il volo ha detto... Allora c'ha ragione, sto cambiando opinione, mi sa che ha ragione. Perché ha ragione, scusi? Ha ragione, perché se uno... come quando uno porta con sé un enfant, cioè un bambino, che deve prendere il posto vicino, non è che... Fino a una certa età, ci sono regole ben precise. Però, se fosse capitato a me mi sarei arrabbiato moltissimo, Scusi, avvocato, durante il viaggio che cosa ha detto a questo signore? Sposta, rimettiti a posto, che fa? Cadeva su di lei. Non potevo dirgli di spostarsi per il semplice fatto che non poteva spostarsi. Dove andava? Vabbè, ma i tribunali italiani. I tribunali italiani non si possono occupare di questa roba qua. Lei sta intasando un tribunale italiano. Sta intasando un tribunale italiano. Avanti tutto. È un mio diritto, sa. È un mio diritto. Ma ho capito, sarà un suo diritto. Ha fatto un viaggio, è un professionista. Ha fatto un viaggio infernale, perché sono tante ore in cui ha questo qui che gli cade praticamente addosso. Vabbè, e non gli obesi fa. Avranno diritto a viaggiare, ma no? Senza dubbio, certo, però hanno diritto, certo, a viaggiare, ma chi non è obeso ha pure il diritto di viaggiare nello stesso modo. Sono in grado di garantire. E lo pagano i danni. Ho capito, ma uno ogni tanto ha la sfiga di viaggiare, che ne so, accanto a uno che russa, accanto a uno se quello russava magari non dormiva lo stesso, è uguale, la stessa cosa. Pago un biglietto per viaggiare seduto, non per vedermi in braccio un signore. Ecco, sì, ha ragione, su questo sì, ma ho capito, ha ragione. Se accanto a lei c'era qualcuno che ruttava tutto il tempo, o che russava, o che ne so, o che, cioè, che gli puzzavano i piedi, cosa avrebbe fatto? È la stessa cosa, sempre un danno era. Non è la stessa cosa. Un conto è la persona, un conto è che una persona occupa il posto degli altri. Sì, ho capito, il posto, una porzione di posto, dai, ogni tanto anche a me è capitato, Parenzo, di sedere in treno accanto a qualcuno un po' più grasso che ogni tanto. Allora faccia pure causa come ho fatto io, vediamo come va a finire. No, lei fa causa perché è avvocato, c'ha tempo da perdere, ma la gente. Ma non tempo da perdere, ho i miei diritti da tutelare. Il giudice di pace di Padova si deve occupare di questo caso gravissimo di una persona obesa che ha occupato una porzione di spazio di sedile del signor destro. Su, avvocato, dai, siamo seri. No, io sono serissimo, forse lei che non lo è facendo questo tipo di osservazione. Ma lei fa la zecca garbuglia, altro che avvocato, dai, su. Io spero che il giudice di pace la guardi in faccia e dice: scusi, ma lei ha avuto semplicemente sfiga, mi dispiace, ha avuto sfiga. Succede. Vediamo se dice così o vediamo se condanna gli Emilic per risarcirmi il danno, poi glielo so proprio dire. Va bene, grazie, arrivederci. Bravissimo. Arrivederci. Prego. Ma ragazzi, come si fa a mettere in mezzo i tribunali perché uno leggermente grasso, un po' più grasso, ti rompe i coglioni, dai, su, ma guarda, sfiga, ha fatto basta, un viaggio sfiga. Terribile questo signore, e giustamente questo avvocato giustamente dice: scusami, ma il viaggio lungo di 8 ore, io sono stato poi ragazzi, ma uno obeso non è che può comprarsi 2 biglietti, se no non viaggerebbero mai questi grassi, dai, su, dai. È grasso pure Mauro da Mantova, mi sembra che pesi un bel po'. Mauro, ci non sei? Non è il suo peggior difetto, diciamo. Mauro, quello, ci sei o no? Mauro, ancora Mauro. Sto 105 kg. 105 kg. Immaginati uno sballo a mano piena quel coglione che hai a fianco. No, però, perché va, subito così? No, ma io guarda, sinceramente, non parlo più, non rivolgo più la parola a questo qua, perché mi fa schifo sta cosa. Vola via come una freccia. Ma non ho capito, perché tu se gli dai uno schiaffo dici che vola via, Parenzo. È facile. Facile, ma ne sa qualcosa l'ex amante della mia ex moglie? Che hai fatto? Che se l'ha pestato davanti a casa, non so voglio che guarda. Ma perché l'hai pestato? Spiegami, perché l'hai pestato? Ma io se ti dico non voglio più sentirti neanche il tuo nome. Questo qua fa una telefonata muta? Ah sì? Ma che ne sai che è stato lui? Che ne sai che è stato lui? Sono andato a casa sua, lei è suo marito. Gli ho detto no, allora tennis. Sì, è stato fuori, c'è caldo, non disturbo in casa. Allora? Come ho detto fuori? Come è uscito che a parte voi gli ho battuto sulla spalla e ho detto amico, ma si è girato, l'ho preso per le spacce, ho lanciato il pelo di schiaffi, perché dopo l'ho inganasciato contro una siepe. Ti avrà denunciato questo qua? Oh, forse tu non hai capito. Ma ti avrà denunciato questo signore? Tu puoi denunciarmi finché vuoi. Io delle denunce me le sbatto il coglione. Vabbè, ho capito Mauro, però se uno picchia una persona viene denunciato. Sai perché? Perché non posseggo nulla e non ho reddito. Vabbè, ma ho capito, non è bello questo. Non è bello. Non ci fa. Ma come non è bello? Ma come no? Era bello quando prendevo 100 euro al giorno. E come campi, scusa, come campi? Con i 200 euro che mi dà il comune. E poi? E poi dopo basta. Va bene Mauro, è tardi stasera, io non voglio interromperti per carità, sai che qui sei sempre il benvenuto, Parenzo non vuole parlare con te, però magari o domani un altro giorno parlerà con te, basta che non metti in mezzo i soliti argomenti tuoi di dietrologia, o no, Mauro? Parenzo mezz'ora fa diceva Salvini, perché non è giusto, cosa vuoi denunciare? Che abbiamo avuto tutti dei precedenti traditori, il primo è Napolitano. Vabbè, ne parliamo domani con tranquillità, Mauro, stasera vedi c'è la musichetta finale. Andate a fanculo. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8, ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Siamo ad alti livelli qua, eh.